Capitolo 23. Venezia. 12 febbraio 1547. Michez e Perna sono a Milano. Il tedesco ha fatto capire a tutti che non è il caso di scommettere contro di lui. Tiziano si è fatto notare in 3 diverse occasioni. A Ferrara ha perfino incontrato la principessa Renata di Francia, amica degli esuli e interessatissima al beneficio di Cristo. L'anabattismo ha fatto colpo. Posso essere soddisfatto, ma non basta. Sto pensando a un secondo giro. Treviso, Asolo, Bassano e Vicenza, per poi tornare a Venezia. Ora che ho preso le misure al mio predicatore anabattista, posso accorciare i tempi. 10 giorni, 2 settimane al massimo. Questa notte ho sognato Kathleen ed Eloy. Solo immagini confuse, non ricordo altro. Ma mi sono svegliato con la sensazione di qualcosa di incombente sul destino di tutti. Come un'ombra scura che preme nella mente. Ho scacciato il malumore con una passeggiata fino a San Marco, raccogliendo i saluti di molta gente che non conosco. Mentre tornavo, ho avuto la sensazione di essere seguito, forse una faccia che avevo già notato questa mattina in Campo San Casciano. Ho fatto un giro largo, solo per confermare il sospetto. 2 tizi, palandrane nere, 30 passi indietro. Forse sbirri. Non deve essere stato difficile intuire chi può aver mozzato la mano di quel marinaio greco. Dovrò abituarmi ad avere qualcuno appresso nei miei spostamenti in città. Motivo in più per ripartire subito. «Te ne vai di nuovo?» È comparsa in silenzio, alle mie spalle, gli occhi smeraldo sulla borsa appena chiusa. Cerco di evitare il suo sguardo. «Sarò qui tra 2 settimane». Un sospiro. Demetra si siede sul letto, accanto alla sacca da viaggio. Perdo tempo annodando un fazzoletto al polso. Da qualche tempo un reuma non mi dà tregua e devo limitarne i movimenti. Se fossi restato qui, Sabina avrebbe ancora il suo bel viso. Finalmente la guardo. Quel bastardo l'ha pagata. Nessuno torcerà più un capello alle ragazze. Dovevi ucciderlo. Trattengo l'agitazione. Così avremmo avuto gli sbirri addosso. Stamattina mi hanno seguito al mercato. Un altro sospiro, per mandare giù la voglia di sbattermi in faccia quello sfregio. È per questo che riparti? Hai paura? C'è una cosa che devo fare. Più importante del caratello? Mi fermo. Ha ragione, le devo una parola in più. Ci sono cose che vanno fatte e basta. Quando gli uomini parlano così, o stanno per andarsene per sempre, o hanno una vendetta da compiere. Sorrido alla sua saggezza, sedendomi accanto a lei. Io tornerò. Di questo puoi stare certa. Dove vai? C'entrano i giudei con cui ti sei messo in affari? Questo è meglio che tu non lo sappia. C'è un vecchio conto da regolare, hai ragione. Vecchio quanto me. Demetra scuote la testa. Un velo di tristezza offusca il verde degli occhi. Bisogna saperseli scegliere i nemici, Ludovico. Non metterti contro la gente sbagliata. Le regalo un sorriso aperto. È più preoccupata per me che per il bordello. Non temere, ho portato fuori la pelle da situazioni peggiori. È la mia specialità.